sud. La Sicilia di Cosa Nostra, una grande banca cattolica veneta con 1000 sportelli, 11.000 dipendenti, decide di spostare il centro della sua attività finanziaria in Sicilia fine anni 90 e ne succedono di tutti i colori, si scatenano le lobby politico-mafiose. Carlo Ruta, saggista, scrittore, ha un modo di ridere di sé franco e contagioso e assomiglia per certi versi a Giampaolo Pansa, pensando forse alle polemiche che presto si abbatteranno su di lui, ma non c'è niente da ridere nel suo libro Segreti di Banca, dai furbi miracoli finanziari del Veneto agli intrighi della Sicilia. Incoraggiare gli studenti alla lettura, progetto ambizioso quello delle fondazioni Maria Goffredo Bellonci di Roma e Giambattista Vico di Batolla, un paese nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, non lontano da Salerno. Viaggio in Italia, scrittori alla scoperta del paese che legge. Il progetto sarà presentato domani nella sala della Fondazione Vico a Batolla, ore 18. Interventi delle scrittrici Laura Bocci, Silvia Bonucci, Francesca Duranti, Paola Mastrocco. Moderatore il giornalista Andrea Pancani, saranno presenti il presidente della Fondazione Vico, Vincenzo Pepe, il presidente della provincia di Caserta, Riccardo Ventre, il direttore del Museo Vichiano, Massimo Olivieri. Giovanni Farsati di Reporter Associati per Amisnet Radio, email giovannifarsati@hotmail.com.